Buonasera. Ma non è qui tanto 500 euro alle 3:20. Lì. Ma dov'è? Vediamo. Cane fasciato. Vabbè. Ne ho preso. Passare ho preso quelli. Quelli come fanno la Rai. Uno dei pacchi. Ne ho preso 2, 4. Manco uno. Addio, pigliare 3 euro di un biglietto, manco uno. Proprio grande, cazzo, sfigato, Dunque, infatti volevo pensare pure a 5 euro, tu ma va a fare qualcuno, non sei la pubblicità. E non l'ho preso, neanche uno. E non ti posso mettere 500 euro con quel biglietto lì. Andiamo a festa, ti ha preso uno a 5 euro, metto 500 euro. Vabbè, meglio usci, ti hai avanti. E allora? L'altra volta ne ho preso 50, quasi 50 euro di biglietti, quelli da 5 euro, e manco uno. Un tipo ne ha preso 2, di gratta, 10 e 10, poi ne ha preso da 1 euro, 40. Cazzo, io proprio zero, Ma io li consegno questi, tanti cose. Ah? Io li consegno, io faccio le consegne di gratta e di prima lui si gratta a tutti e poi quello vincente se lo prende lui, capito? 10 ce ne sono due vincenti sempre. Vabbè, pompo. Stavo sperando magari di prendere la rosa vincita. Magari la cosa sarebbe cambiata, e come? Bucciandolo la cifra. La prima cosa che faccio mi compro la casa. Quello è scontato. E poi il resto piano piano, tutte le cose da mettere a posto, tutte le multe le avrei pagato, tutti i piccoli cose da pagare che c'ho. Vabbè, non c'è niente da fare, niente da fare. Sono più vero di niente, i soldi fanno i soldi. Vabbè, comunque, andava bene. Oh, iaia, un casino ragazzi, è un casino. Ci ho provato ma nulla. Infatti, tanto se rimbito non vinco mai. Mi ha recuperati e non ho vinto. No, non ho vinto niente, nulla. Perché prima di comprare ci sono lì, quando vincono li mettono in esposizione, quelli che hanno vinto. E sono veramente due di quelli. Nulla, altre due, nulla. Ah va, non spendo più soldi. Ma invece grazie. Anzi, bugia, ho vinto con 3 euro 40 euro la macchinetta. C'è il cinese che si fa 50-60 euro al giorno, nella parte c'è la stazione, di fatto la stazione, ma vede un parecchio un altro, ha la macchinetta, ogni arriva lì, la moglie avete a lavorare in negozio. Lui se ne va alla macchinetta, ci fa 50-60 euro alla sera e 50-60 euro la mattina. Io stavo all'una e mezza, e cioè l'1:20, l'una e mezza, forse quello là lì, però va, metto io 210 euro vinto. Sì, ma quello è tutti i giorni quello là, e fa un culo, c'è una scappa di culo, quando vai a cercare sempre la macchinetta. Ieri, ma su bagaglio, piccoli buffi che c'è Peppo. Basta, nulla, non da nessuno va. Praticamente da poco è capitato che c'era questa macchinetta rotta ed era bloccata, no? Ma non sa più nulla, era. Lo spettro è accesa e me ne ha scaricato 8 euro. Continua a giocare e inizia a scaricare questa macchinetta. Sono arrivato 47 euro mi sembra che erano. E me ne parlare, ma no. Questi qua sono soldi di un signore che si è bloccata, toccavo a lui. Ma cosa mi so qui io? Però la macchinetta è accesa, io lo aspetto, è accesa e mi ha dato quei soldi qua. Ehi, ma boom, ma bimbo! E dite, vabbè, ma mi ritengo io di là. E poi niente, dai, tipo gli hanno portato la metà di quei soldi lì, la metà me la sono tenuta io. E poi il pallone del mago, un altro, siccome sono due. Due gestori, no? L'altro, metto, no, ma tu, mamma, mi sei miserabile, tu, quello che tu dici è un miserabile. C'ha la chiesa, era bloccata, io non aspetto, non è accesa, non c'era scritto né guardo, oppure non è, era accesa la macchina. Io l'ho accesa e ho vinto. Ma c'era, no, lei sa di era di quel signore lì, bum bam. A me non me ne frega niente. Vabbè, fatto poi dirò la metà la tengo io. Beh, pure pure la casa metà l'ha giurato. Stasera gli devo tornare. E se li aprissimi, con la faccia di merda quel signore. Perché ci studiavano, se ne frega, l'ho capito. Lascia la macchinetta così, non è che controllo, non è che ti scrivono la macchinetta è disabilitata. Capito? Si così. Allora ti mandi lui, ripetita. Allora, ripeto di farlo. Allora, ti sacco di farlo. Tutti, buon 144 e il 10 prossimo. È così, vabbè, comunque, aspetta, pagate i buffi, basta. La prossima volta, la quattro giorni, la prossima volta che capita, mettete un bigliettino, guarda, nessuno la prende, non sa nulla. Perché io mi sarei intascato 47 euro, 48, adesso non mi ricordo. E non c'è nulla, non mi ci imbucciacca la tenuta. La prossima volta che ti capita così ti cassi sotto i naldi e fai prima, non capire niente. Via, rispegni la macchinetta quando vai di nuovo con l'aria e accendi la tua porta. Ma il bello è che se mi ha sentito scaricato la macchinetta, è quello che mi ha fregato. Infatti ha detto, ma stai facendo perché era dietro il banco lui. È venuto così di me e me l'ha detto. Proprio era gli sgruzzi di quella macchina. Mi ha scaricato, se o no, una ventina di euro, da un euro, ora sono 3,50. Proprio la... non dico che l'ha scaricata tutta, ma lì siamo, era quasi vuota. Figurati, non hai più tanto, va. Ah, dunque, la sera si va a 2,90, sì. Un euro, quanto è, 4. Non li cubarli, un euro contatto ho messo. Si prego di uscire il capo. Però mi ha dato una storia, una fila di uva per 4. Poi il rischiaccio mi ha dato una fila di diamanti centrale. Poi da lì è andato a pagare. Mi ha dato una schermata di cuori, 45 euro. Ma il vinto per... avevo vinto quando c'erano i videopoker. Con 5 euro avevo vinto 300 euro, ma cazzo, e ora di... Ma te li fai domani, da fuori, dimmi. Daniele. Eia, eia, già ci sono, già ci. Ma c'è una nostra di bongo domani, no? Ma neanche per sogno, basta. Quando capita, un euro, due euro, ci butto, boh. E poi, ci dimmi beh, se no, più baletta. Ma già capita, e poi già ricapita. E poi ti attirano, va bene così, forse se riesci è meglio. Ah, c'è gente che riconosce la macchinetta, nel senso che quando mette la moneta, se vede che blocca sopra, perché sopra c'è un altro, quello che scarica, ecco, se scendono giù, dicono che 80, 70, 80% dovrebbe pagare. È capitato così una volta lì alle ferie, questo tipo sta giocando una macchinetta, ci hanno messo 30 euro ed è riuscito a scaricarne 45, tu ma non ci gioco più, fate la stessa volta, mette un euro, perché prima stavo giocando io, mette un euro in un'altra macchinetta. Ha visto che la moneta è scesa giù, dove c'è il contenitore dove ci sono le monete. Ha fatto due tiri da buca da 300 euro. Hai visto? Quella deve essere gente che gioca un bel. Ma è fortuna la mia fortuna. Dove? Yeah. E tu non vinci mai? Senti il mio foglio. Ma hai vinto? Non c'è il mio foglio, sì. 350 euro, no, perché 350 grandi da voi, grandi da voi. Io euro, c'ho 5 euro, devo mettere la benzina alla moto e devo comprare la sigaretta con quei soldi lì. YouTube. Vabbè, tu insomma la rischio. Allora, la prima chicca non ho messo i soldi, no? Ero 200 cosi, dai, 200 punti ti davo di credito. Se mi è scesa quasi a zero, stavo giocando apposta a 5. Tiro, scala massima. Scala massima a 5. Cazzo. Allegria, 2500 punti. Andare, mi tubo già a posto in occhio. Metto a posto a 10, faccio un paio di autopediti in un'altra scala massima. Altri 5000 punti. Già non ne ho levato 8000. 8500, mi sembra 8000. Io adesso per quello non ho uscito. Guarda pochissimo che è uscito. È uscito a poco più giù. C'è 50 ragazzi. Non era che posta l'hai preso? Posta 5. È pochissimo, posta 5, sono 11000 punti dentro del... Ma infatti so che... Era un pigliante di ticket, allora c'era il corso. C'era? Ticket. No, ho capito, tutto lì. Ma che lei capitava il ticket, non ci sono. Ah, sì. Era un pigliante di questo. Io mi ricordo un tipo, stesso, questo tipo non giocava a soldi, eh. C'erano serie, ci metteva anche 150, 200.000 lire, poi a 300. Come ci hanno capitato così? Veniamo ogni sera qua a giocare. Ci mette, non so, 10.000 lire, in lire ti parlo, eh. Cazzo, comincia a caricare. Questo è quel bar dove siamo andati a prendere il caffè, ti ricordi, vicino a casa. Inizia, c'era, c'erano le macchinette, al bancone, tutto ticket, non so quanti, 2 milioni e 3 milioni mi sembra. Infatti quando, siccome la macchinetta si è guastata, tipo gli ha detto quello che stava giocando, io ci metto la banca di soldi, non vinco mai niente, adesso che si è imballata, come facciamo qua? Alla fine è riuscita a farsi dare 1,5 milioni. Perché non erano tutti che ti ridavano? No, perché si è imballata tu di lì. C'ha ragione, cazzo, ogni giorno ce ne metteva a soldi questo qua. C'è un giorno ci metteva 50.000 lire, c'è un giorno ce ne metteva 100, 150. Cazzo, si è imballata, ma che si è imballata, ma li voglio vedere. 3 milioni qua ci sono. Ma non ti posso dare per il padrone della macchinetta, no? Non te le posso dare perché bum bam bim bom, è un po' impossibile darti quella cifra lì. E io ci metto sempre tanti soldi, qua non vinco mai. Come la mettiamo? Guarda, se vuoi ti posso venire in conto, ti do 1,5 milioni e tagliamo la testa al toro. E così è stato. E la si è attaccata dietro. No, proprio il panone delle macchinette. Via. Ma se ne è cascato lui? Scusa, erano 3 milioni. 3 milioni, anzi, se c'è un milione per la pancosa, l'altro milione per la pancosa. Ehi! Quella di 3 milioni, la macchina li incassati, no? Insomma, non avevo neanche incassato ancora la macchina. Ma quello stesso, quando dicevo, mai ci fa la fare quello che dicevo, eh? E penso che metta in consumazione. No, software lì. Così gli ha dato, 1,5 milioni. Infatti gliel'ha detto. Ogni santo giorno si buia di là. No, se vieni la birretta e vai la macchinetta. Ognari. E poi niente, si è ballata. Fatti il conto, dove sono le macchinette? Pensavo al bancone dove ti servono lì. Mi sa che mi arrivi di glucosa. E poi se li ha rotolati al collo, no? Si è fatto le collane. Poi niente, quando è successo così, hanno chiamato il padrone della macchinetta, passa così. E ha subito accudito. E di solito quando li chiami ci sono problemi, non vengono subito. Come ha sentito una cosa del genere, subito lì mi è piombato. E si sono messi d'accordo. Ti duri a 3 milioni. 3 milioni, dove te li do? Ma sta scherzando, dai, altro la metà. Tanto la metà. E io, avanti, cioè, Daniele, riprendo un attimo che vado in cucina. caro, raga, la prima erano tre consumazioni le vincite. Dipende, la mia dipende. Io mi ricordo che per legge erano le consumazioni e poi punto in bianco hanno ripreso i soldi. Ti danno la metà, i soldi la metà in consumazione, no? Per venirti in compo. Miele. Avanti. Voglio venire io. Questa è stata. Sì, bro. Da già non ho finito. Intanto ci metto un euro, non dico mai. io lo stesso. Metto un euro, ma sono arrivato in due. O uno, io me lo restituisce. A me manco un'intorno. Io ci metto un euro e no. Non vinco niente. Quest'estate invece ho vinto sì. Capo cambia di Gesù, ha scritto ma non vincerò. Ha già questa macchinetta, sì. Io credo mi aspettavo di più, ma già andavamo bene anche se euro. Poi è stato brutto giorno che non ne avevo soldi. Allora sta fatta di lusso, qui noi capi ce l'abbiamo fatta da qui nel cielo, andate e vinci, poi basta. Beh, carità, mi sa che ci riesca qualche giorno a vincere una bella cifra. Davvero? Davvero, io da quel giorno non ho più vinto nulla, allora perché non ci gioco mai, ma io non so che ho giocato non ho vinto nulla. Oh, Daria. Vero, Daria. Ma mamma gli ho dato il digitale terrestre per non avere problemi, per non disturbare. Mi lascia qui sull'altro, via. Vai, vada a buscia. E accendilo. Ma se non so usare. Che ma devi imparare. C'è lui in camera. Vada lì per non avere problemi, perché quello là ce l'ha. Capito? Lasciamo, vabbè, tanto... Quando l'elevano l'analogico è obbligato a tenerlo sempre acceso. Allora con busta andare in galleria, sì. Speriamo che a marzo l'elevano tutti, speriamo. Già un giorno dopo l'ottobre, sì. A fare la vecchia visita terrestre, un cazzo sono deciso, tutto un casino, Guardi una parabola, Daniele. Rete 4, Rete 2. Ehi, con la parabola col terrestre, ti arriva lo stesso io. Beh, io. No, io gli ho dato perché c'è quel programma Rete 4, quel programma che guarda la mamma. Era febbre d'amore, blu. Però mi ha aiutato. Infatti se mi sposto, mi possiamo io voglio andare al 40. Entro sul Rai 1. Dipende, un casino quando c'è questi problemi. Qua, quanti cavoli vedi tu? Però è normale. Nel terrestre, quanti cavoli prende? A me ho preso quelli Rai e Mediaset 57, 58 buco. È un po' come, perché c'è gente buco che prende di più che prende di meno. Un casino, Per esempio, questo qua di fronte a me, che dice che disturba il telefono, dice che lui non lo prende neanche. No, non gli funziona lui il terrestre. Vuol dire non c'è antenna buona. Antenna condominiale centralizzata, sa. Dice che non funziona. È impossibile. Così mi ha detto cosa ti sto dicendo. Dice che non funziona. Sarà. No, non mi ha dato problemi, la verità. Ma poi diciamo che ci vuole un'antenna sua proprio. Ci vuole un'antenna sua, ma non è quello il problema, si va, si compra. Non la fa carro, compriamo 50-60 euro, salgo la piazza. Tanto il cavo di discesa è nuovo. Miscelatore mi ha fatto pompone nuovo. Quello per il digitale terrestre. Cambio quella VU, poi è a posto, aspettavo il cambio. Cara, beh, è un casino la stazione del terrestre, ma almeno si è vinta. Questo c'è un nuovo posto io che ho rubato, io sono bambino. E niente, chi c'è rimasto qua? Ho sì, c'è un pugno, no? So, avanti, riprendo un altro. C'è un bel di gente che non ne sa usare, quindi puoi digitare il terreno. Arrivi tu come fa, un anziano, una certa età, a imparare a usare questa storia. Guarda che ce l'ha anche mia nonna, gliel'abbiamo comprato. E piano piano ci riesce, cioè gli abbiamo spiegato un punto, devi fare così perché il canale non è come analogico, che dici tu al passo. Dice schiacci, ci sono altri canali. Abbiamo insegnato un po' tutto. E piano piano lo usa, ogni tanto gli faccio un aggiornamento io e tutto quanto. Piano piano, Come faccio adesso? Io non ci riesco, sono mettato al televisore, piano piano vedrai che già ci riuscirà. La difficoltà è quella, ma c'è gente che non ne capisce niente, zero, ma gente anche un po' più giovane, proprio, sono peggio degli anziani. Quasi tutti uguali, hanno le stesse funzioni, sono scritto in chiaro, è abbastanza comprensibile. Sì, il mio è un cosa, c'è il sistema MHP, c'è la scheda, capito? C'è l'interattivo, tutto quanto, ma ci sono quelli normali. È perché molti, a molti anziani anche, decida quello col sistema HP e tutte queste cose qua. E non se ne fanno niente, cioè l'idea è una cosa complicata, Questi agli anziani gli si dovrebbe dare un decoder più facile senza scheda, è quello che si fa, si sbaglia un po', capito? Cavolo, è così lo stesso. E niente, ogni tanto se si faccio l'aggiornamento, anche da poco gliel'ho fatto. E lui va. Certo, ogni tanto bisogna farlo, perché ci sono altri canali nuovi, sono le frequenze, è un bel cose ci sono. Riccardo, tu mettici un po' di Sprite. Corellino, riprenditela. Svegliati. Alle 5 c'è la tavola. Sento dei rumori sottofondo. Prova, parla, to. Anzi, non so se c'è qualcuno all'altro canale. Non sei tu comunque, tu sei lì, dai, tu sei a posto. Vero? Dovrebbe essere Luca. Luca, fai la brava, che ci sei finito.